Lettera 21. Miss Vernon a Mr. De Courcy. Signore, spero che vogliate scusare questa mia libertà. Sono costretta a farlo da una situazione molto penosa, altrimenti mi vergognerei di disturbarvi. Sono molto sfortunata a causa di Sir James Martin e l'unico mezzo che ho per cercare aiuto è scrivervi. Perché mi è stato proibito persino di parlarne con i miei zii, e stando così le cose, temo che appellarmi a voi sembrerà solo un errore, è come se avessi ascoltato solo le parole e non lo spirito che anima i comandi della mamma. Ma se non prendete le mie difese e non la convincete a rompere il fidanzamento, diventerò matta, perché non posso sopportarlo. Nessun altro essere umano, a parte voi, può avere la minima possibilità di influenzare mia madre. Se quindi voleste avere l'indescrivibile gentilezza di parlarle al posto mio e di convincerla a far andare via Sir James, vi sarei più grata di quanto sia in grado di esprimere. Mi è stato antipatico appena l'ho conosciuto e vi assicuro, signore, che non è un'impressione momentanea. Mi ha sempre dato l'impressione di essere sciocco, impertinente e sgradevole, e ora è diventato peggio che mai. Preferirei lavorare per il mio pane e guadagnarmelo piuttosto che sposarlo. Non so come scusarmi a sufficienza per avere scritto a lei questa lettera. So che mi sto prendendo una grande libertà e sono consapevole di quanto la mamma si arrabbierà terribilmente, ma devo correre questo rischio. Rimango, signore, la vostra più umile servitrice, Frederica Vernon. Lettera 22. Lady Susan a Mrs. Johnson Churchill. Amica carissima. Oh, questo è intollerabile. Mia carissima amica, non sono mai stata così infuriata. E devo calmarmi scrivendo a te, che so che capirai tutti i miei sentimenti. Chi è venuto qui martedì se non Sir James Martin? Immagini il mio stupore e la mia irritazione, perché, come ben sai, non ho mai voluto che fosse visto a Churchill. Ah, che peccato che non conosca le sue intenzioni. Non contento di essere venuto, si è autoinvitato a rimanere qualche giorno. L'avrei avvelenato. Tuttavia, ho fatto quel che potevo e ho raccontato la mia storia con grande successo alla signora Vernon, che, qualunque fossero i suoi veri sentimenti, non ha detto nulla contro i miei. Ho sottolineato anche a Frederica che doveva essere educata con Sir James e le ho fatto capire che ero decisa a farglielo sposare. Lei ha fatto un accenno alla sua infelicità, ma niente di più. Da un po' di tempo a questa parte, vedendo la rapidità con cui cresce il suo affetto per Reginald e non sentendomi assolutamente sicura che alla fine non potesse essere ricambiato, ero più che mai decisa a concludere l'unione. Per quanto sia spregevole, ai miei occhi un affetto basato solo sulla pietà, non ero affatto sicura che questo non potesse essere il risultato. È vero che l'atteggiamento di Reginald nei miei confronti non si è raffreddato, ma ultimamente ha menzionato Frederica spontaneamente e inutilmente, e in un'occasione ha fatto un'osservazione a suo merito. Quando ha visto apparire il mio visitatore, è rimasto stupito e all'inizio ha osservato Sir James con un'attenzione che mi ha fatto capire che non era esente da gelosia, ma purtroppo non sono riuscita a tormentarlo perché Sir James, pur essendo estremamente galante con me, ha chiarito ben presto a tutta la comitiva che il suo cuore era completamente devoto a mia figlia. Quando mi sono ritrovata da sola con De Courcy, non ho avuto difficoltà a convincerlo che da tutti i punti di vista il mio desiderio di unione era assolutamente giustificato e l'intera questione sembrava essere convenientemente risolta. Nessuno dei due è riuscito a capire che Sir James non era un Salomone, ma avevo espressamente proibito a Frederica di lamentarsi con Charles Vernon e con sua moglie e quindi non avevano intenzione di intromettersi. Anche se la mia impertinente cognata credo fosse ansiosa di avere un'occasione per farlo. Tuttavia, tutto procedeva senza intoppi, con calma e tranquillità, e sebbene contassi le ore di permanenza di Sir James, la mia mente era assolutamente soddisfatta dell'andamento degli eventi. Beh, indovina allora cosa devo aver provato quando all'improvviso ho visto tutti i miei piani modificati e da una parte che non avevo motivo. di temere. Questa mattina Reginald è venuto nel mio studio in modo insolitamente solenne e dopo qualche premessa mi ha informata con queste parole che desiderava farmi rinsavire su quanto fosse sconsiderato e crudele permettere a Sir James Martin di corteggiare mia figlia contro la sua volontà. Ero stupefatta. Quando ho visto che non potevo fargli cambiare idea, gli ho chiesto con calma una spiegazione e l'ho pregato di dirmi che cosa lo avesse spinto a rimproverarmi e chi lo avesse incaricato di farlo. Poi mi ha detto, mescolando nel suo discorso alcuni complimenti insolenti e sgradite espressioni di affetto, che ho ascoltato con assoluta indifferenza, che mia figlia gli aveva riferito alcune circostanze riguardanti lei, Sir James e me, che lo avevano messo in grande agitazione. In breve ho scoperto che Frederica gli aveva scritto per chiedergli di intercedere per lei e che dopo aver ricevuto la sua lettera ne aveva parlato con lei per conoscere i dettagli ed essere sicuro di quali fossero i suoi reali desideri. Non dubito che l'impudente abbia colto l'occasione per confessargli il suo amore, dal modo in cui ne ha parlato ne sono convinta. Molto bene. Può fargli questo amore. Disprezzerò sempre l'uomo che sa accontentarsi della passione che non ha mai voluto ispirare né ha mai suscitato. Li detesterò sempre, entrambi. Non è possibile che provi qualcosa per me, altrimenti non gli avrei prestato attenzione. E che lei, con il suo cuoricino ribelle e i suoi sentimenti indelicati, si getti nella protezione di un giovane con cui ha scambiato appena una o due parole? Ah, sono confusa tanto dalla sua impudenza quanto dalla sua credulità. Come ha osato credere a ciò che lei gli ha detto contro di me? Non avrebbe dovuto essere sicuro che avevo ragioni inconfutabili per tutto ciò che avevo fatto? Dov'era la sua fiducia nel mio buon senso e nella mia bontà? Dov'era il risentimento che il vero amore avrebbe dettato contro la persona che mi calunniava? Quella persona che oltretutto era una ragazzina, una bambina, senza talento né educazione, che lui le aveva sempre insegnato a disprezzare? Sono stata calma per un po', ma anche il massimo grado di padronanza può essere superato e spero di essere stata sufficientemente acuta in seguito. Si è sforzato molto di mitigare il mio risentimento, ma in effetti è un uomo sciocco ed è una donna sciocca quella che, pur essendo insultata da un'accusa, si lascia ingannare dai complimenti. Alla fine se ne andò profondamente arrabbiato con me e mostrando altri segni della sua rabbia. Io ho finto freddezza, ma lui ha dato sfogo all'indignazione più violenta. Posso sperare quindi che passi prima e che forse sparisca per sempre, mentre la mia rimarrà fresca e implacabile. Ora si è chiuso nelle sue stanze, dove l'ho sentito andare quando è uscito dalla mia. Oh, come devono essere sgradevoli i suoi pensieri! Ma i sentimenti delle persone sono incomprensibili. Non mi sono ancora calmata abbastanza da vedere Frederica. Non dimenticherà facilmente quello che è successo oggi. Si renderà conto di aver rivelato invano la sua tenera storia d'amore, esponendosi per sempre al disprezzo del mondo intero e al risentimento più severo della madre ferita. Con affetto, tua Susan Vernon. Lettera 23. Mrs. Vernon a Lady De Courcy, Churchill. Permettetemi di congratularmi con voi, mia carissima madre. La vicenda che ci ha causato tanta ansia si sta concludendo felicemente. Le nostre prospettive sono molto favorevoli e, dato che le cose hanno preso una piega così favorevole, mi dispiace molto di aver condiviso con voi i miei timori, ma la soddisfazione di sapere che il pericolo è passato può forse compensare tutto quello che avete sofferto prima. Sono così agitata per la gioia che a stento riesco a tenere la penna, ma sono decisa a mandarvi qualche riga tramite James per darvi una spiegazione di ciò che senza dubbio vi stupirà molto, e cioè che Reginald sta tornando a Parklands. Ero seduta mezz'ora fa con Sir James nella sala della colazione quando mio fratello mi ha fatto cenno di uscire dalla stanza. Mi resi subito conto di ciò che stava accadendo. Aveva la testa alta e parlava con grande eccitazione. Conosci il suo modo di fare, impaziente, mia cara madre, quando è interessato a qualcosa. Catherine, disse, oggi vado a casa. Mi dispiace lasciarvi, ma devo andare. Non vedo nostro padre e nostra madre da molto tempo. Ho intenzione di mandare subito James con i miei cani, così se avete delle lettere posso portargliele. Non tornerò a casa prima di mercoledì o giovedì perché sarò a Londra, dove ho delle cose da fare, ma prima di andare, proseguì parlando in tono più basso ma più energico, devo avvertirvi di una cosa. Non lasciate che questo Martin renda infelice Frederica Vernon. Lui vuole sposarla, la madre lo vuole, ma lei non sopporta l'idea. Potete essere certi che parlo con la piena convinzione che ciò che dico è vero. So che la presenza di Sir James qui rende Frederica infelice. È una ragazza piacevole, merita un destino migliore. Mandate subito via quel giovane, non è che uno sciocco. Ma cosa possa avere in mente sua madre, lo sa solo Dio. Addio. E aggiunse, stringendomi con forza la mano, non so quando mi rivedrai, cara sorella, ma ricorda quello che ti ho detto su Frederica. Dovrai fare in modo che le sia resa giustizia. È una brava ragazza e una mente superiore a quella che abbiamo sempre creduto. Poi mi lasciò e corse di sopra. Non cercai di fermarlo perché sapevo quali dovevano essere i suoi sentimenti. Non ho bisogno di descrivere la natura dei miei mentre lo ascoltavo. Rimasi per qualche minuto dov'ero, sopraffatta dallo stupore, anche se con una sensazione davvero piacevole. Tuttavia, per essere calma e felice avevo bisogno di riflettere un po'. Circa 10 minuti dopo il mio ritorno in salotto, Lady Susan entrò nella stanza. Conclusi come ovvio che lei e Reginald avevano litigato e la guardai in faccia con ansiosa curiosità per avere conferma di ciò che credevo. Maestra nell'inganno, apparve del tutto indifferente e dopo aver chiacchierato per un po' di tempo su argomenti insignificanti mi disse: Ho saputo da Wilson che stiamo per perdere il signor De Courcy. È vero che lascerà Churchill questa mattina? Ho risposto che lo era. Non ce ne ha parlato ieri sera, rispose sorridendo. Non ce ne ha parlato nemmeno stamattina a colazione, ma forse non lo sapeva. I giovani prendono spesso decisioni inaspettate e sono tanto veloci nel prenderle quanto instabili nel portarle a termine. Non mi sorprenderebbe se alla fine cambiasse idea. E non partisse. Subito dopo ha lasciato la stanza. Tuttavia, mia cara madre, confido che non abbiamo motivo di temere alcun cambiamento nei loro piani. Le cose sono andate troppo oltre. Devono aver discusso anche di Frederica. Che piacere vi farà rivederlo. Sapere che merita ancora la vostra stima, che è ancora capace di rendervi felici. Spero che quando vi scriverò di nuovo potrò dirvi che Sir James è partito, che Lady Susan è stata sconfitta e che Frederica è a suo agio. Abbiamo molto da fare, ma lo faremo. Sono impaziente di sapere come è avvenuto questo straordinario cambiamento. Concludo come ho iniziato con le mie più sentite congratulazioni. Sempre vostra, Catherine Vernon. Lettera 24. Dalla stessa alla stessa. Churchill. Ah, non immaginavo, mia cara madre, quando ti scrissi la mia ultima lettera, che il delizioso stato di inquietudine in cui mi trovavo allora si sarebbe trasformato così rapidamente, così tristemente. Non sarò mai abbastanza dispiaciuta di averti scritto tutto quanto, ma chi avrebbe potuto prevedere quello che è successo? Mia cara madre, tutte le speranze che mi rendevano così felice 2 ore fa sono svanite. Lady Susan e Reginald si sono riappacificati e noi siamo tutti come prima. Abbiamo guadagnato solo una cosa. Sir James Martin si è congedato. Cosa dobbiamo aspettarci ora? Sono veramente delusa. Reginald stava per partire. Aveva il cavallo pronto e quasi alla porta e chi non si sarebbe sentita al sicuro? Sono stata mezz'ora ad aspettare la sua partenza. In un momento, dopo avervi inviato la mia lettera, sono andata da signor Vernon e mi sono seduta con lui nella sua stanza per discutere dell'intera faccenda. Ho deciso allora di cercare Frederica, che non vedevo dall'ora di colazione. Mi sono imbattuta in lei sulle scale e ho notato che stava piangendo. Mia cara zia, disse, lui se ne va, il signor De Courcy se ne va ed è colpa mia. Temo che sarete molto arrabbiati, ma non avevo davvero idea che sarebbe finita così. Tesoro, dissi, non devi scusarti con me per questo. Sarò grata a chiunque riporterà a casa mio fratello perché, riprendendo la calma, so che mio padre è molto ansioso di vederlo. Ma cosa avete fatto per provocare tutto questo? Lei, la piccola Frederica, È arrossita violentemente e ha risposto: ero così infelice per Sir James che non potevo, non, non. Ho fatto una cosa molto sbagliata, lo so, ma lei non ha idea di quanto sia stata infelice. E mamma mi aveva ordinato di non parlarne mai più né a voi né a mio zio, e. E così hai parlato con mio fratello per chiedergli di intercedere, ho detto con l'intenzione di risparmiarle la spiegazione. No, ma gli ho scritto. Gli ho scritto! Mi sono alzata dal letto prima che facesse giorno. Mancavano circa 2 ore e quando ho finito la lettera ho pensato che non avrei mai avuto il coraggio di consegnargliela. Tuttavia, dopo colazione, stavo andando nella mia stanza quando ho incontrato nel corridoio e allora, sapendo che tutto dipendeva da quel momento, ho fatto un grande sforzo e glielo. E gli porsi il biglietto. Fu così buono che lo accettò subito e io non osai guardarlo e scappai subito via. Ero così spaventata che riuscivo a malapena a respirare. Oh, mia cara zia, non sapete che razza di disgraziata sono stata. Frederica, ho detto, avresti dovuto raccontarmi tutte le tue disgrazie. Avresti sempre trovato in me un'amica pronta ad aiutarti. Pensi che tuo zio ed io non avremmo sostenuto la tua causa con lo stesso fervore di mio fratello? Oh, non dubitavo davvero della vostra bontà, disse lei arrossendo di nuovo, ma pensavo che il signor De Cursey potesse influenzare mia madre, anche se mi sbagliavo. Hanno avuto un terribile litigio per questo motivo e lui se ne sta andando. Mamma non me lo perdonerà mai e io me la passerò peggio di prima. No, non lo farai, risposi. A questo punto il divieto di tua madre non avrebbe dovuto impedirle di parlarmene. Non aveva il diritto di renderti infelice e non lo farà. Tuttavia, aver fatto appello a Reginald può essere vantaggioso per tutti. Penso che sia davvero la cosa migliore. Dipende dal fatto che non continueranno a rendervi infelici. In quel momento, con grande stupore, vidi Reginald uscire dalla camera di Lady Susan. Immediatamente il mio cuore trasalì. La sua confusione nel vedermi era evidente. Frederica scomparve subito. Dove stai andando? Le chiesi. Troverai il signor Vernon nella sua stanza, no, Catherine? Rispose. Non me ne vado, non me ne vado. Posso parlarti un momento? Così siamo entrati nella mia stanza. Vedo, continuò, la sua confusione aumentava mentre parlava, che ho agito con la mia solita sciocca irruenza. Avevo frainteso completamente le parole di Lady Susan e stavo per uscire di casa con una falsa impressione della sua condotta. È stato commesso un errore molto grave. Credo che tutti noi ci siamo sbagliati. Frederica non conosce la madre. Lady Susan si limita a fare gli auguri alla figlia, ma Frederica non va d'accordo con lei. Pertanto, Lady Susan non sempre sa cosa renderà felice sua figlia. Inoltre, non avevo il diritto di interferire. Miss Vernon ha sbagliato a venire da me. Insomma, Catherine, è stato tutto un errore, ma ora è tutto felicemente risolto. Credo che Lady Susan desideri parlarne con te se hai un momento libero. Senza dubbio, dissi, tirando un profondo sospiro dopo aver ascoltato questa pessima spiegazione. Non ho commentato, tuttavia, perché le mie parole sarebbero cadute nel vuoto. Reginald fu felice di lasciarmi e io andai da Lady Susan, curiosa di sentire la sua versione. Oh, mia cara cognata! Non vi avevo detto che alla fine i giovani cambiano idea e che vostro fratello non sarebbe partito? È vero? Risposi con grande serietà. Ma mi illudevo che vi sareste sbagliata. Non mi sarei azzardata a esprimere un'opinione del genere, rispose lei, se non mi fosse venuto in mente che la sua decisione di andarsene poteva essere stata dettata da una conversazione che abbiamo avuto questa mattina e che si è conclusa con una grande insoddisfazione da parte sua, perché nessuno di noi aveva capito bene il significato di ciò che ci eravamo detti. Questa idea mi è venuta in mente all'improvviso e ho subito deciso che un litigio accidentale, in cui probabilmente avevo la stessa colpa di quanta ne avesse lui, non doveva privarvi della compagnia di vostro fratello. Se ricordate, ho lasciato la stanza quasi subito. Ero decisa a non perdere tempo per chiarire il più in fretta possibile questi malintesi. La domanda era questa. Frederica si era violentemente opposta al matrimonio con Sir James. E sua signoria si meraviglia che l'abbia fatto? ho esclamato con veemenza. Frederica ha una grande capacità di comprensione, mentre Sir James non ne ha alcuna. Oh, sono ben lungi dal rammaricarmi, mia cara cognata, disse lei. Al contrario, sono felice di vedere un segno così favorevole del buon senso di mia figlia. Sir James è indubbiamente molto inferiore a lei, e i suoi modi infantili lo fanno sembrare anche peggio. E se Frederica avesse avuto l'intuito e le capacità che avrei voluto in mia figlia, o se avessi saputo che possedeva tutto ciò che possiede, non sarei stata così ansiosa di celebrare quell'unione. È strano che solo voi ignoriate il buon senso di vostra figlia. Frederica non si rende mai giustizia. I suoi modi sono timidi e infantili. Inoltre ha paura di me. Mi ama a malapena. Durante la vita del suo povero padre era una bambina viziata. La severità con cui ho dovuto trattarla da allora me l'ha resa ostile. Le manca anche un intelletto brillante, quel potere creativo o forza mentale che spinge a progredire. Beh, ho detto io, diciamo piuttosto che ha ricevuto un'educazione deplorevole. Oh, Dio sa, mia carissima signora Vernon, quanto ne sia pienamente consapevole, ma vorrei poter dimenticare tutte le circostanze che potrebbero gettare la minima colpa sulla memoria di colui il cui nome è sacro per me. A questo punto finge di scoppiare a piangere, ma io, madre, avevo esaurito la pazienza. Ma cosa mi avrebbe detto la signora del suo malinteso con mio fratello? Chiesi. È stato provocato da un'azione di mia figlia che indica anche la sua mancanza di giudizio e la pietosa paura che ha di me e di cui ho parlato prima. Ha scritto al signor De Courcy: Lo so, le avevate proibito di parlare con Mr. Vernon o con me della causa del suo disappunto. Cosa poteva fare quindi se non andare da mio fratello? Oh, buon Dio! È possibile per voi supporre che io fossi a conoscenza della sua infelicità? Che il mio scopo fosse quello di rendere infelice la mia stessa figlia? E che le avessi proibito di parlarvi di questo argomento per paura che voi ostacolaste il mio diabolico piano? Pensate che io non possieda alcun sentimento onesto e umano? Sono forse capace di condannarla all'infelicità eterna, quando il mio primo dovere al mondo è quello di procurarle il massimo conforto possibile? Che idea terribile! Beh, allora qual era la sua intenzione, la vostra intenzione, quando avete insistito perché io tacessi? A che cosa servirebbe, mia cara cognata, che io venissi da voi, qualunque sia la questione? Perché dovrei sottomettermi a suppliche alle quali io stessa mi sono rifiutata di prestare attenzione? Una cosa del genere non sarebbe auspicabile né per voi, né per lei, né per me. Quando ho preso la mia decisione, non ho voluto che nessuno interferisse per quanto amichevolmente. Ho sbagliato, è vero, ma credevo di avere ragione. Ma qual è stato l'errore a cui la signora continua ad alludere e da cui è scaturito un così sorprendente fraintendimento dei sentimenti di vostra figlia? Non sapevate che Sir James non le piaceva? Sapevo che non era affatto l'uomo che lei avrebbe scelto, ma ero convinta che le sue obiezioni non fossero dovute al fatto che si rendeva conto delle sue carenze. Non dovete però interrogarmi troppo minuziosamente su questo punto, mia cara cognata. Continuò prendendomi affettuosamente la mano. In tutta sincerità, ho qualcosa da nascondere. Frederica mi rende molto infelice. Il fatto che sia andata dal signor De Courcy mi ha ferita in modo particolare. Cosa intendete? Ho detto con quell'aria di mistero. Se pensate che vostra figlia si sia invaghita di Reginald, il suo rifiuto di fidanzarsi con Sir James per questo motivo non meriterebbe meno attenzione che se la causa fosse la conoscenza dell'idiozia di quel giovane. E in ogni caso, perché vostra signoria ha litigato con mio fratello per essersi intromesso nella faccenda? Se sapete bene che lui, per natura, non si esime mai dal dare assistenza quando qualcuno la chiede. Oh, conoscete il suo temperamento bonario ed è venuto da me per esprimere la sua disapprovazione per i miei modi di fare. Tutta la sua simpatia era per quella bambina maltrattata, per quell'eroina angosciata. Abbiamo frainteso l'una le parole dell'altro. Pensava che fossi più colpevole di quanto non lo fossi in realtà io. Mi sembrava che il suo intervento fosse meno giustificabile di quanto non mi sembri ora. Ho una grande stima di lui e mi sono vergognata immensamente quando ho capito che avevo sprecato quell'affetto che ci eravamo scaldati entrambi, scambiati entrambi e che ovviamente la colpa era di entrambi noi. La sua decisione di lasciare Churchill è tipica del suo temperamento impaziente, tuttavia, quando ho capito le sue intenzioni e allo stesso tempo mi sono resa conto che forse entrambi avevamo sbagliato a interpretare le parole l'uno dell'altra, ho deciso che volevo una spiegazione prima che fosse troppo tardi. Proverò sempre affetto per tutti i membri della vostra famiglia e confesso che sarei stata profondamente ferita se la mia relazione con il signor De Courcy fosse finita in un modo così triste. Devo solo aggiungere che, poiché sono convinta che Sir James sia ragionevolmente sgradito a Frederica, gli comunicherò subito che deve abbandonare ogni speranza di sposarla. Mi rimprovero di aver reso infelice mia figlia. Anche se involontariamente, con questa vicenda farò del mio meglio per ricompensarla, se tiene alla sua felicità quanto me, se ragionerà in modo sensato e si controllerà come dovrebbe, ora potrebbe essere facile trattare con lei. Oh, perdonatemi, mia carissima cognata, per avervi rubato così tanto tempo, ma lo dovevo alla mia reputazione e dopo queste spiegazioni confido di non rischiare di farvi pensare male di me. Avrei potuto dire non molto, davvero, ma mi sono allontanata quasi in silenzio. Ho fatto del mio meglio per non ribattere. Se avessi iniziato a parlare, non sarei stata in grado di fermarmi. Che comportamento, che falsità! Ma non mi permetterò di crogiolarmi con queste cose. Mi sono sfogata abbastanza. Il mio cuore batte violentemente. Non appena mi sono sentita abbastanza in forza, sono tornata in salotto. La carrozza di Sir James era alla porta e lui, gioviale come al solito, è partito subito dopo. Con quanta facilità una signora incoraggia o allontana un amante. Anche se si è liberata di lui, Frederica sembra ancora infelice, forse teme ancora l'ira di sua madre e sebbene abbia paura che mio fratello se ne vada, potrebbe essere gelosa che lui sia rimasto. Vedo l'attenzione con cui osserva lui e Lady Susan, povera ragazza, non ho più speranze per lei. Non c'è alcuna possibilità che il suo affetto venga ricambiato. L'opinione che ha di lei ora è molto diversa da quella che aveva solo poco fa. Le rende una certa giustizia, ma la sua riconciliazione con Lady Susan esclude ogni speranza. Prepariamoci al peggio, mia cara madre. La probabilità che si sposino ora è senza dubbio maggiore. Lei ha controllo su di lui più che mai. Quando questo infelice evento si verificherà, Frederica dovrà essere interamente nostra. Sono grata che la mia ultima lettera preceda questa di pochissimo tempo, perché è importante che io vi risparmi ogni momento di felicità che possa portare solo a delusioni. La vostra devota figlia, Catherine Vernon.